E questa è Pandemonio. Questa è Radio Virus, una radio autogestita. Dunque, scusate se è basso, scusate se glitcha, scusate se droppa. Beh, due parole su questa radio. Questa è Radio Virus, nasce a Macao, si aggrega in una chat dove chi trasmette si alterna da casa. E da dove se no? Sei in zona rossa, non puoi uscire. E questa è Pandemonio, seguirà non una di meno Milano, alle 19 però. E questi naturalmente sono i Divo. Una radio autogestita is something to be. Dicevamo che questa è una radio autogestita, il che significa che, date le situazioni, ognuno trasmette da casa sua e ci si coordina in una chat dove avvengono cose simpatiche del tipo mollami lo stream, ehi, devo trasmettere io, ho occupato lo stream, tocca a me adesso, ciao! Let me know. Non so se avete cominciato ad andare a letto presto o vi fate la nottata, se cominciate o continuate a fare l'aperitivo alle 9 o se l'avete tirato un po' avanti. Sono le 17:46, oggi è il 28 di marzo 2020 e stiamo trasmettendo liberamente. Queste condizioni di liberamente non è detto che continuino invariate. Io bevo la vostra. Naturalmente salutiamo Baku che ci sta ascoltando da Venezia direttamente sul cellulare mentre sta portando una crostata. Non ho letto tutto il messaggio. E salutiamo anche Giulia, certo che bevo. Sono qua. Uno degli argomenti di cui vorremmo parlare stasera è la sproporzione. Io ho un difetto di pronunzia e dunque mi viene male. Sproporzione. Una proporzione sbagliata. Sproporzione naturalmente tra la situazione gravissima, come sappiamo, e il conseguente muoversi di un apparato repressivo e di controllo che probabilmente non aspettava l'ora. Messaggio a tutti i cospirazionisti. Non sprecate tempo a domandarvi se questa cosa sia stata causata. No, non lo è. Potete benissimo guardare però chi ne approfitta. E nel frattempo, restare vivi, che è un po' la musichetta che stavamo passando in questo momento, restare vivi è importante, curatevi dei vostri cari, curatevi anche di tutte le persone che vi sono vicine, di questo parleremo più avanti, ma curatevi anche di voi. E a proposito di apparato repressivo, avremo tempo di parlarne. Andiamo in onda più o meno fino alle 19, quando entrerà non una di meno Milano. Nel frattempo parleremo un po' di alcune cose che stanno succedendo. Una cosa curiosa è che diverse entità che avevano un potere limitato, hanno acquisito un potere ben maggiore. Mandiamo un contributo sui sindaci. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Domani ti becco, domani! Non pensiate tra anni, domani! Sono il sindaco, sul mio territorio non si passeggia. Non vi posso impedire formalmente di uscire da casa? Bene, vi impedisco di passare sul fuoco. Allora mi rivolgo a voi. Ma dove cazzo andate? Dove andate con questi cani che ci hanno la prostata infiammata? E voi, non è previsto il ping pong. Non potete giocare a ping pong, andiamo. Alla PlayStation, siccome io sono il sindaco di questa città, in questa città il decreto lo faccio rispettare io. Quindi, se ne deve andare a casa adesso, non voglio lo scudo. Tutti, dovete stare tutti a casa. Deve andare. Non si può stare in mezzo alla strada, come ve lo devo spiegare? Non si può stare. A casa. La mazza, le fidanzate con la mazza ci vuole. Che cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli e fe? A che cazzo servono? Cioè, ma l'avete capito che utavuto un chiudono? L'avete capito che chi cazzo da davvero per sti capelli aggiustamento utavuto? Ho incontrato un nostro concittadino che amabilmente faceva la corsetta su e giù per la strada accompagnato da un cane visibilmente stremato. L'ho fermato e gli ho detto: guarda che questo non è un film, tu non sei Will Smith in Io sono leggenda, quindi passa pa' casa. La città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà. Bravo, bravo dottore, complimenti. Bravo dottore, bravo. Bravo, ma non applauditemi, io non so. Non modestia, al lavoro, eh? Al lavoro. Avete sicuramente riconosciuto intanto le voci di diversi sindaci italiani che si esprimevano nel rispetto dei loro concittadini per le misure di distanziamento sociale messe in atto nel momento dell'epidemia, e poi avete riconosciuto il finale che è tratto dal celeberrimo film di Elio Petri, Cittadino al di sopra di ogni sospetto, interpretato da Gianmaria Volonté nel momento in cui prende il potere, diciamo, come ruolo nell'apparato repressivo. Una pausa e vi metteremo i Varum Joe, gruppo ingiustamente misconosciuto francesi, i quali ci canteranno Causa Nostra, cioè Colpa Nostra. Les couchers par là, surgir d'en haut et disparaître en bas. En astronomie, ça c'est l'évolution. Et en politique, cohabitation. Changer le moindre désir en besoin. Jouer la pénurie pour vivre des magasins. En économie, c'est la spéculation. Et en politique, les élections. La cité le tireur, comme si le rôle ne connaîtrait pas l'acteur. En biologie, ça c'est une mutation. Et en politique, cohabitation. Bien voilà, vous seuls se tromper de chemin. Sans espoir de retour avant l'appel du matin. En cours martial, ça c'est une désertion. Et en politique, cohabitation. Divulguer les secrets d'état-major, tout en jurant qu'on sera toujours d'accord. Entre elle et moi, ça c'est une trahison. Et en politique, cohabitation. Hey-oh. Hey-oh. Hey-oh. il discorso chiaramente è complicato. Non vi confondete, il virus esiste e sono necessarie le misure sanitarie per evitare il propagarsi dell'epidemia, la quale ormai è una pandemia. Nel frattempo, come sempre avviene in questi casi, c'è chi ne approfitta perché le misure di controllo che vengono messe in azione non rendono migliore la vita che dicono di proteggere. Si potrebbe terminare con l'essere prigionieri della propria buona salute. E dunque, app che controllano gli spostamenti, coprifuoco, braccialetti elettronici, delazione. La domanda, la unica domanda, è tutto necessario? Riacquisteremo dopo i diritti civili persi e le libertà sociali? Questo è Frank Zappa che ci consiglia di mangiare molti vegetali e roba verde perché ci fa bene e alza le difese immunitarie. Chiedi a un vegetale e il vegetale ti risponderà. You know, a lot of people don't bother about their friends in the vegetable kingdom. They think, what can I say? Sometimes they think, where can I go? Where can I go to get my poodle clipped in Burbank? At Ralph's Vegetarian Poodle Clipping. Where can I go to get organic Vaseline for my intercourse? Swahili restaurant where you can come this way. Where can I go to get my jeans embroidered at Fullerton? At Jeans North where nothing fits. Where can I go to get my zipper repaired? Who gives a fuck anyway? Where can I go to get my speakers fixed? Hey, where can I go to get my exit at lights? At Jack LaLanne where Hamburgers can I go on 312 to get my Whittier stomach Boulevard. Pumped? Where can I go to go up? A-D-Doo. Questions, questions, questions flooding into the mind of the concerned young person today. Ah, but it's a great time to be alive, ladies and gentlemen, and that's the theme of our program for tonight. It's so fucking great to be alive is what the theme of our show is tonight, boys and girls. And I want to tell ya, if there's anybody here who doesn't believe that it is fucking great to be alive, I wish they would go now because this show will bring them down so much. God bless America. Respond to you. And if you're a consenting adult, we want you to call today. In Los Angeles, the number is Richmond 96135. In Downey, it's 347-8932. Call it direct, call it collect, but call it today. Frank Zappa ci ha parlato sia di consenso che del fatto che sia un magnifico momento per essere vivi, anche perché non ce n'è un altro. Passiamo dunque al momento del che fare di Gramsciana Memoria. Dunque, che cosa si può fare in questo momento? È un momento ottimo per cominciare ad adottare degli strumenti liberi. E dunque, l'antico discorso che nasce nel 1984 o quella data del free software, o altrimenti detto software libero. A questo proposito vogliamo ricordare autistici, inventati, i quali decideranno di darci uno strumento da utilizzare per rimanere in contatto. Leggo direttamente dal loro blog. Il blog si chiama cavallette.noblogs.org. Videoconferenze per auto-organizzarsi in remoto. Video call for remote self-management. Viste le circostanze, abbiamo deciso di rendere disponibile, su base sperimentale e per un periodo limitato di tempo, un servizio di videoconferenza aperto a tutti, per supportare attività di gruppo a distanza. Il servizio è disponibile su VC, come Vicenza Cosenza, .autistici.org ed è stato implementato usando il software open source Jitsi. Il servizio è fruibile liberamente da un computer con webcam o da una smartphone usando la app di Jitsi, senza bisogno di effettuare alcuna registrazione o autenticazione, ovvero è possibile usarlo anche se non si è già utenti di autistici.org. La capacità è limitata e nel caso dovesse terminare, le condizioni di accesso potrebbero cambiare oppure espanderemo le capacità. Vedremo. Ci interessa però parlarvi di alcune questioni tecniche che è importante sapere prima di usare questo strumento. Autistici Inventati non mantiene alcuna registrazione della chiamata e nessun identificativo personale dei partecipanti. Questo ovviamente non vale per le persone che partecipano alla chiamata con voi, perciò se non volete che sconosciuti partecipino alla vostra chiamata, vi consigliamo di impostare una password per la stanza. Il servizio è pensato per gruppi che condividono la nostra policy. In caso di abuso, non ci faremo problemi ad intervenire. Pare che ci siano incompatibilità con versioni di Firefox non sufficientemente recenti. Quindi, in caso riscontraste problemi, vi consigliamo prima di provare con Chromium. In alcuni casi Jitsi effettua connessioni peer-to-peer, che implica che il proprio indirizzo IP può essere rivelato agli altri partecipanti. Ricordate che è impossibile impedire agli altri partecipanti di registrare le conversazioni e che le videoconferenze sono suscettibili alle intercettazioni elettroniche e di ambientali contemporaneamente. Detto ciò, non ci resta che augurarvi buon uso del nostro nuovo servizio. In caso incontraste problemi, ricordate che potete segnalarli all'indirizzo email help@autistici.org. Buona organizzazione! Sul mantenersi vivi, sia nella fisicità, sia nei rapporti sociali, nei rapporti comunitari, politici e in tutto ciò che è vita, mi andrebbe di mostrarvi questa canzoncina che è di un gruppo messicano che si chiamano Café Tacuba. Hanno avuto un loro momento qualche anni fa. Questa si chiama Ojalá que llueva café. Ojalá è un'espressione poco usata in Spagna, molto usata in Messico, che vuol dire più o meno auspicabilmente. Speriamo che piova caffè, che vada tutto bene. Pinta mi cosecha, pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. En el campo. canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. E dunque, nell'augurarci che vada tutto bene, proviamo anche a domandarci come fare a fare sì che vada tutto bene. In questo momento stanno uscendo tantissime diverse guide sul come fare a fare in modo che vada tutto bene. Ne scelgo una, più o meno a caso, ma giusto perché è uscita l'altro ieri. Si chiama La Rebellion è in quarantena. Viene dal Cile, è firmata da Jorge Enkis. La trovate su www.saludantiautoritaria.net. È una guida pratica di sopravvivenza. È una guida pratica di sopravvivenza e dunque di sicurezza e prevenzione sociale di fronte a una pandemia. Starò traducendo direttamente dallo spagnolo. Il mio spagnolo è decisamente arrugginito, perciò mi perdonerete se dico cazzate. E dunque, il Covid-19, come combattere il disastro? Quali sono le conseguenze nell'ordine sociale e come niente di ciò fu disegnato per preservare il nostro benessere? Punto primo, formate gruppi di affinità che condividono o supportano lo stesso livello di rischio. Non necessariamente dovete vivere nella stessa casa, l'importante è che si possano ridurre i fattori di rischio a degli ambiti compatibili e comprensibili da tutti, in modo che tutti quelli che li condividano si sentano comode. Se il tuo gruppo è molto piccolo, starà isolato, e ciò è un problema, specialmente se qualcuno si ammala. Se il tuo gruppo è molto grande, corre un rischio non necessario di infezione. Formare un gruppo di appoggio. Ultimamente la frase mutuo aiuto o appoggio mutuale è stata molto estesa, incluso anche in ambito politico. E il suo significato originario, il concetto di mutuo aiuto, non descrive un programma che porta assistenza unidirezionale agli altri nello stesso modo di una organizzazione caritatevole. Scusate. Ma, al contrario, è la pratica decentralizzata dell'attenzione reciproca, attraverso la quale diverse parti, partecipando in una rete, si assicurano che tutti ottengano ciò che necessitano, perché tutti tengano le ragioni per investire o invertire nel benessere di tutti. Stato totalitario, veniamo al sodo, sto sempre leggendo la guida. Il totalitarismo non è una minaccia del futuro lontano, i media hanno già implementato in tutto il mondo una voce unica e sono totalitari. Stiamo vivendo dei decreti unilaterali del governo che impongono proibizioni totali della vita, confinamento e di tutto quello che riguarda la sfera delle 24 ore. Una vera e propria legge marziale e altri media dittatoriali. È probabile che vedremo alcune riforme sociali destinate a pacificare la popolazione, quantomeno temporalmente, in maniera temporanea, per mitigare l'impatto della pandemia. Però verranno insieme all'accresciuta violenza di uno Stato fino a che nessuno avrebbe potuto immaginarlo o viverlo, perché in questo momento si sta confondendo con ciò che protegge la nostra salute. Come non prendere il virus? 1. Lavati le mani. 2. Sterilizza il tuo ripugnante telefono cellulare. L'alcol va benissimo. Questo ogni volta che te ne vai da una parte nuova, specialmente in un luogo dove vai a mangiare. Considera di tenerlo a casa, il cellulare, a meno che non lo e perlomeno non usarlo mentre mangi. Chiedi a un microbiologo qualche cosa riguardo la sanità dei telefoni cellulari. Desidererai non averglielo mai chiesto. Pulisci i punti comuni di contatto con alcol, le maniglie delle porte, le maniglie dei mobili, quelle del frigorifero, gli interruttori elettrici, eccetera. non ti toccare la faccia mentre stai fuori. Considera che di fare dei bagni con più frequenza. Se è una delle tue, se è una delle cose che non è la tua cosa favorita, tieni conto che le tue mani, cioè fallo lo stesso, fatti dei, lavati. Se le, considera che le tue mani non sono l'unico luogo della tua pelle dove circolano i microbi. Microbios. Mantieniti idratato per il meglio che puoi. Se odi l'acqua potabile, prova con acqua o gas, o prova con una bevanda elettrolitica in polvere, o un additivo vitaminico, o una spremuta di limone. Cerca di bere e di fumare meno. Se il tuo corpo sta usando già delle energie per curarsi da un problema o per metabolizzare la quarantena, questa è energia che non potrai usare per la tua immunità. Mentre che, mentre tutto ciò, cerca di tenere aria fresca in casa. Il caldo serve come cultura per i germi. La polvere si metterà a romperti le ovaie nel sistema respiratorio e diminuirà la possibilità di immunizzazione. Mangia alimenti di qualità. La stessa cosa si può dire se il tuo cuore sta occupato a processare il doppio Big Mac, è un po' più difficile confrontarsi con il resto delle cose. In questo momento hai bisogno di tutte le risorse possibili, devi alzare il livello di livello di difesa del tuo corpo. Cerca di dormire molto e con qualità. Sappiamo che sta per cominciare un periodo difficile e che avrai e sappiamo anche che questa sta cominciando a somigliare alla voce di tua madre. Però siamo sinceri, probabilmente ci sono degli aspetti in cui aveva ragione. La mancanza di sonno è una delle cose che basicamente possono convertire rapidamente il tuo sistema immunologico da una fortezza a un crollo. Riduci il livello di stress. Questo non significa continuare con le persone tossiche o prendere più droga per avere la forza di resistere. Al contrario, significa prendersi cura di sé. Fai le cose che ti fanno felice e che ti rilassano. Considera anche rinunciare al tuo sposo abusivo. Digli che è per il bene della scienza. Considera il prendere un multivitaminico basico, una vitamina C per esempio, zinco. Se veramente hai bisogno di uno sforzo immunologico, ci sono indizi per cui non vi capisco più, la Reiz de Astralago, l'Estracho de Tomillo possono aiutare. Certamente possono aiutare, insomma, considera un multivitaminico. Evita i luoghi con troppa gente, ovviamente questa è una cosa difficile. Nel trasporto pubblico ci sono momenti e luoghi dove non puoi fare a meno che interagire con il pubblico, questo è inevitabile, mantieni la distanza se puoi. Se sei del tipo che evita gli asiatici, c'è una tecnica di fai da te che renderà impossibile per te contrarre il virus. Beviti un bicchiere di cloro di colpo, grazie razzista di merda. E domanda, ma se lo hai preso? Se hai preso il virus? Bene, sei stato geniale, hai evitato le moltitudini, ti sei lavato le mani con alcol e il gel ogni volta che potevi, ma è capitato e questo è un gioco di probabilità, non essere duro con te stesso. Ora, se ti stai preoccupando che ci sia un raffreddore semplice fanne caso, potrebbe sta circolando in questo momento a un ritmo allarmante, o ti starai domandando probabilmente se tutto ciò è un raffreddore, un'influenza o se hai preso la terrificante peste. La cattiva notizia è molto difficile verificarlo a meno che mostri dei sintomi reali del genoma del virus. Ci sono gruppi di biohacking che stanno lavorando su ciò, ma è difficile. La notizia invece buona non fa molta differenza. Quello che devi fare in ogni caso è prendere la cosa sul serio, prenderti cura di te e non trasmetterlo agli altri. Un altro punto importante di questa guida che mi sembrava importante, come curarsi di qualcuno che è malato. Bene, diciamo che la persona, per esempio, non deve andare in ospedale, però in ogni caso deve essere curata. Che fare? primo, dagli aiuto dal punto di vista emotivo, consuelo. Non è una roba quasi ovvia da dire, ma stai prendendoti cura di un essere umano e se lo mantieni rilassato e felice, rilassata e felice e sentendosi amata, più maggiori saranno le possibilità di recupero. Il sistema limbico è compatibile col sistema immunitario. Il sistema immunitario di una persona felice funziona meglio di quello di una persona che non lo è. Dove sta il tuo ojito de peluche? Dov'è il tuo sacchiotto di peluche? Dov'è tuo figlio? Dov'è il tuo gatto? Portali qua. Ricordati che la virulenza del virus Covid-19 è molto alta, il tasso di mortalità invece è basso. Fino adesso la letalità è approssimativa, più o meno del 3,5%. È probabile che non ci sia molta differenza tra il contrarre un raffreddore o avere contratto il virus e che in ogni caso la persona in questione recupererà. Prova a spiegargli che la probabilità di stare malata più di una settimana è molto bassa e che non si stressi, perché questo non farà che peggiorare la situazione. Mantienilo caldo, calda, ma non troppo calda. Portagli le sue cose che gli piacciono bere e anche le cose fredde che gli piacerà avere, le sue cose preferite, che abbia a disposizione i film che gli piacciono, anche se fanno cagare, e non ti prendere gioco di lei o di lui per questo, davvero. Leggi il suo libro favorito da quando era bambino, non giocare con questo. Trova il tuo gioco preferito dallo scaffale e gioca con questo, anche se non ti piace. Sì, fai ciò che piace a quella persona. Ricordati che la sua sopravvivenza è che la sua propria rivoluzione sia imminente, e che si riposi e che si riprenda è un atto di guerra politica, come direbbe, come ha detto anzi, Audre Lorde. Se veramente ha bisogno di bere, portagli una bevanda calda con un distillato, cannella, Higgin Libre che non saprei tradurre, e evita magari la tequila o la birretta. Prova a non stancarla o stancarlo troppo. Se aneli disperatamente una sigaretta, dagli magari un cicle, cioè dagli una finta sigaretta, perché il tabacco potrebbe dare altri problemi. In ogni caso una piccola magari dose di nicotina che non sovraccarichi i polmoni. Puoi fare questo con più volte se ne necessita di più. Se ha bisogno di marijuana, prova a dargliene magari da mangiare invece che da fumare, in modo che non sovraccarichi i polmoni. Che dire, questi erano i fragorosi e bellissimi consigli di questa guida uscita ieri in ambito cileno. Direi che a questo punto metterei una canzone. Metto una canzone che amo tanto, si chiama Needles and Pins, cioè letteralmente aghi e spille. Nella versione è una cover, anche se è la loro famosa essere, è una cover dei Ramones. Needles and pins. torniamo all'aspetto prendersi cura. Citerò delle parti che mi sono state mandate direttamente dall'amico Hendrix. Il quale probabilmente ci ascolta dalla Slovenia. Ciao. Le normali mascherine servono ad evitare che le goccioline che escono dalla bocca quando si parla o si tossisce infettino le altre persone. Non servono a proteggere noi che le indossiamo, ma a proteggere gli altri. Parliamo delle normali mascherine. Naturalmente, con influenza e raffreddore, le dovrebbe indossare chi è malato e non chi è sano, per evitare che le goccioline contagino altre persone. Ma, siccome molti contagiati da questo coronavirus sono asintomatici, cioè senza sintomi, apparentemente sane, il contagio viene diffuso anche da persone che sembrano sane e stanno bene e che magari, anche se sono contagiate, non si ammalano. Quindi, dal momento che non possiamo sapere con certezza se siamo sani oppure infetti, bisognerebbe che le indossassimo tutti quanti. Visto però che le mascherine scarseggiano e quelle poche che ci sono servono a medici e infermieri, una pezza, anche se ricavata da vecchie lenzuola, avvolta su bocca e naso e annodata dietro la testa, può comunque svolgere un buon lavoro. E in più è lavabile. Ogni volta che si torna a casa, mentre ci si lava le mani, si lava anche la pezza, facile ed efficace. Perché la carica virale si annulli, occorre aspettare massimo un giorno su carta e cartone, 2 giorni sull'acciaio, 3 giorni su plastica. Quindi, anche se le possibilità di venire contagiati toccando i pacchetti del supermercato sono molto, molto basse, una volta a casa conviene spruzzare alcol, quello rosa va bene, o altro detergente su uno straccetto e passarlo sulle confezioni. Una passatina, non c'è bisogno di esagerare. Tutte robe antivirali come l'aceto, in parti uguali con l'acqua, la mucchina 1 a 10, sono utili, come pure l'acqua ossigenata o gli antibiotici locali per evitare infezione, vedi gentomicina. Queste cose che vi ho letto le scriveva l'amico Hendrix a sua figlia di 12 anni che vive in un altro paese, pezzo di cuore. Passiamo a un altro pezzo musicale in questo momento. Questo è Manu Chao in una delle sue espressioni meno note, un pezzo che era uscito quando aveva fatto un disco per bambini e il pezzo si chiama Bisogna mangiare tutti i giorni e anche dormire, come ricorderà della canzone, che è in francese però. Tous les jours il faut manger, il faut courir tous les jours, il faut courir, il faut gagner tous les jours, il faut gagner, il faut subir tous les jours, il faut subir, il faut manger tous les jours, il faut manger, il faut gagner tous les jours, il faut gagner, on va crever tous un jour, on va crever. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut manger tous les jours, il faut manger. Il faut courir tous les jours, il faut courir. Il faut gagner tous les jours, il faut gagner. Mieux vaut en rire tous les jours, mieux vaut en rire. Il faut tenir tous les jours, il faut tenir. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. Je veux t'aimer tous les jours, je veux t'aimer. pandemonio, il grande casino che sta avvenendo adesso. A proposito di grande casino, noi qua stiamo trasmettendo da Milano. Per quanto gli si voglia bene, non si possono non ricordare le cazzate fatte. E dunque facciamo un grande saluto a Beppe Sala, il nostro sindaco, il meno peggio, come ci viene ricordato, perché è davvero il meno peggio, potrebbe arrivare galera, il cui nome è già un programma. Però Beppe Sala gli vogliamo comunque ricordare, perché non ne possiamo fare a meno, del tipo: guarda che la campagna Milano non si ferma, quando già era in corso l'epidemia, è stata una cazzata. A quanto pare l'ha capito e ha detto anche: forse ho sbagliata. Ecco, leva il forse, ci siamo. E inoltre, qualche giorno dopo, quando finalmente fu conclamata il fatto dell'epidemia e anche del distanziamento sociale a seguire, interruppe le corse della metropolitana, creando assembramenti. Seconda cazzata, forse ho sbagliato, meno male che l'hai capito, ne siamo tutti molto lieti. Io però comunque ho in questo momento, che è un momento un po', come dire, quasi dove bisogna badare alla sopravvivenza, quando ieri ho visto le macchine, ho sentito anzi le macchine dei vigili che passavano con l'altoparlante sotto casa e dicevano: messaggio del sindaco, state a casa, la prima cosa che ho pensato è stata scappare. Sia ben chiaro ai cittadini che drogarsi è da cretini. E se osservate i depravati, li vedrete devastati, avviliti. Il drogato non ha scuse per le sue idee confuse. E non si dia colpa allo Stato, al contesto all'apparato. Sono io il proibizionista, portatore sano di idea giusta, appartengo ai salvatori, vero difensore dei valori. Niente è mai stato più nocivo del famoso pensiero permissivo, e almeno risparmiatemi lo strazio di sentirmi difendere un c'è bisogno di drogarsi, con tanti modi per distrarsi, cibo, alcol, anche il fumo, cinema, tele, più il consumo. Sono io il proibizionista, portatore sano di idea giusta, appartengo ai salvatori, difensore dei valori. Se vince in me l'idea dello sballo, sai, diventa tutto un gran bordello. Per una sana e vera prevenzione è molto più sicura la prigione. Altra informazione, scusate se ve li do in ordine così sparso, ma del resto questo è TJ Scatter e non è che vi potete aspettare una scaletta organica. Dunque, il WHO, cioè World Health Organization, fa sapere nel 2017 che le condizioni di contenimento delle epidemie non si applicano uguale da paese a paese, in quanto cambiano le condizioni culturali. Questo lo diciamo a chi sta dicendo applichiamo il modello asiatico all'Italia. Come sapete, qualche tempo fa, fino a una settimana fa, Boris Johnson, il leader della Gran Bretagna, auspicava quella che veniva chiamata un'immunità di gregge, ha cambiato idea, si è anche rivelato positivo. Noi, senza sbagliare, gli dedichiamo una canzone. England is a bitch, bitch, bitch, bitch. England is a bitch, bitch, bitch. When me just come to London town, me used to work on the underground. But working on the underground, you don't get to know your way around. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. There's no running away from it. Me get a little job in a big hotel, and after a while me was doing quite well. Them start me off as a dishwasher, but when me take a stock, me not turn clock watcher. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. Nobody try fi hide from me. When them give you the little weird pocket, force them rabbit with them big tax racket. You have to struggle fi make ends meet. And when you pour your bed, you just can't sleep. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch for true. I no lie me, I tell a truth. Me used to work big bitch when it fall no bitch. Me did strong like a mule, but why me did fool? Then after a while, me just stop the overtime. Then after a while, me just put on me tool. England is a bitch. There's no escaping it. England is a bitch. You have to know how to survive in it. Well, me do day work and me do night work. Me do clean work and me do dirty work. Them say that black man is very lazy. Per dare un'idea del casotto che sta succedendo, un vero e proprio pandemonio, cito una notizia dell'altro ieri. L'ENAC, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, concede l'uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, nell'ottica di garantire il contenimento dell'emergenza epidemiologica coronavirus. Le operazioni sono condotte con dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa a decollo inferiore ai 25 kg. Questo in deroga a tutte le disposizioni precedenti e nella disponibilità della polizia locale. Il che vuol dire che Gigi, il poliziotto di quartiere, alza un drone con telecamera e magari con addirittura un megafono e ti dice vai a casa. Ma anzi, no, notizia di oggi. Le cose cambiano in fretta. Il ricorso ai droni per controllare il rispetto delle norme sul coronavirus è durato pochi giorni, neanche una settimana. Oltre all'effetto scenografico, ci sono infatti aspetti delicati di sicurezza, di privacy, di equilibrio e ordine nel traffico aereo. Da ieri 27 marzo, dunque, stop a questi mezzi per la vigilanza Covid-19. La comunicazione è partita dal Viminale, che non nasconde evidentemente quale sia il problema, che qualche agente di polizia locale, forse impresa all'entusiasmo di un mezzo tutto nuovo rispetto alle pratiche tradizionali, gli sia scappata la mano. We'll be right back. Un'altra cosa di cui vale la pena di parlare sono i captatori informatici. Ora, i captatori informatici non sono altro che delle applicazioni che vengono, che si installano o vengono installate su un telefonino. Vengono installate quando vengono installate da remoto, per esempio qualche anno fa un'applicazione, no, meno di un anno fa, scusatemi, un bug su WhatsApp permetteva l'installazione di un captatore informatico da remoto. È un vero e proprio virus o un software, se preferite, o se preferite ancora, un'applicazione. Vi ricordate il famoso slogan di qualche anno fa, "There's an app for that"? C'è un'applicazione per ciò? Ecco, c'è anche un'applicazione per il controllo di prossimità. Dunque, viene introdotto, esiste già da molto tempo, il concetto di captatore informatico a installazione volontaria, mentre fino a qualche anno fa, o meglio, fino a settimana scorsa, il captatore informatico poteva essere solo installato su richiesta di un GIP, cioè un giudice d'indagine preliminari. E nel corso di un'inchiesta per delle tipologie di reati molto gravi, come potrebbero essere quelli di concorso mafioso, adesso la situazione è cambiata. Il tentativo che viene fatto è quello di indurlo su base volontaria. Dunque, per il bene comune, in virtù del virus, mi dispiace di avere questo bias particolare sulla privacy o sul controllo, d'altronde è quello di cui mi occupo da una ventina d'anni e dunque spiace un po' vedere come tutto il lavoro passato possa andare a ramengo nel giro di una settimana. E dunque, per il bene comune e per scongiurare il virus e per sapere se si sia stati in prossimità di qualcuno contagiato, ecco che è stata proposta l'installazione su base volontaria per il momento di un'app che è a tutti gli effetti un captatore informatico, cioè prende il controllo del telefonino ed è in grado di dire quando questo telefonino è in prossimità di un altro telefonino che magari appartiene a una persona che risulta contagiata dal coronavirus. E dunque, se fino a qualche poco tempo fa ci si preoccupava del social profiling cinese e li si guardava tipo, oh mio Dio, questi fanno il social profiling, e li abbiamo scavalcati così, a botta. Non è ancora fatta, per il momento l'app deve essere proposta su base volontaria e se non funzionerà così, evidentemente sarà su base coatta. Dunque, per dirla in soldoni, sarà probabilmente che hai una app che sarà implementata attraverso la pressione sociale, o se questo non dovesse bastare, diventerà obbligatoria, la quale dirà se sei verde, cioè se non hai contratto il virus. E se sei verde, probabilmente potrai entrare al supermercato. Se invece sei rosso, al supermercato non ci entri. L'altro giorno al supermercato prendevano la temperatura. Il tempo stringe, è stato molto bello. Vorrei lasciarvi con un paio di pezzi, uno a cui tengo molto, è tratto da un film. Il film è di Mel Brooks, si chiama Le 12 sedie, tratto dall'omonimo romanzo, e la canzone dice: augurati il meglio, aspettati il peggio. Best. man who said a fortune that was splendid. Then he died the day he planned to go and spend it, shouting, live while you're alive, no one will survive. Life is sorrow, here today and gone tomorrow, live while you're alive, no one will survive. There's no guarantee, oh, for the best, expect the worst. E questo era DJ Scat che vi saluta e vi augura una buona serata e lascia la linea tra pochi minuti a non una di meno Milano. Yeah. Era il 28 di marzo 2020, è possibile che ci risenta ancora, ovviamente date le condizioni, nulla è garantito. Ciao.